colla, ora voglio qualcosa da fare, tutti i ragazzi per fare la colla, tutti i ragazzi qualcosa da fare. Voglio pippare la colla, ora voglio qualcosa da fare, tutti i ragazzi pippare la colla, tutti i ragazzi qualcosa da fare. Ora voglio qualcosa da fare, tutti i ragazzi mi fare la colla, tutti i ragazzi qualcosa da fare. Ora voglio mi fare la colla, ora voglio qualcosa da fare, tutti i ragazzi mi fare la colla, tutti i ragazzi qualcosa da fare. Non lo fate a casa e lo diciamo per scherzo noi di pippare la cosa.